E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo sui consumi degli italiani dopo il dato di ieri della Confcommercio. Oggi l'Istat ha fornito anche un dato che riguarda non tanto i consumi quanto il potere d'acquisto da un lato e la spesa dall'altro. E dico subito che insomma si conferma un 2010 difficile per le famiglie italiane. Il reddito delle famiglie italiane è al palo, ossia nel terzo trimestre la variazione è stata pari a zero, su base annua più 1,4%, ma attenzione perché nei primi nove mesi, su base annua, il terzo trimestre ha fatto un più 1,4%. Però se prendiamo i primi nove mesi del 2010, complessivamente il reddito delle famiglie italiane è cresciuto dello 0,4%, le spese delle famiglie italiane sono cresciute del 2,2%. Non ci vuole un genio della matematica, quindi ci arrivo anch'io per capire che le famiglie hanno speso più di quanto sia aumentato il reddito. Ed ecco perché, tra l'altro, la propensione al risparmio, ossia quanto si riesce a risparmiare, tocca nel terzo trimestre del 2010 il minimo dal 2000, ossia scende al 12,1%. Sono dati destagionalizzati, quindi hanno già preso in considerazione le differenti giornate lavorative, festive e quant'altro. Dicevo, un dato che comunque è in linea con quanto segnalava ieri la Confcommercio, che ha detto, attenzione, il potere di acquisto delle famiglie italiane, e quindi con la spesa per consumi in realtà, scusatemi, è calata ai livelli del 1999 in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, come potere d'acquisto 1.900 euro, vado a memoria se non ricordo male, come spesa, che sono gli stessi livelli, appunto, in termini reali al netto dell'inflazione, che si registravano nel 1999. E continueremo a occuparci dei consumi delle famiglie italiane. L'altro tema resta la Fiat, anche oggi botta e risposta, Susanna Camusso, segretaria della CGIL, e poco fa Sergio Marchionne, sempre da Detroit, dove ha creato anche molto interesse sul titolo Fiat Industrial, la dichiarazione di del presidente John Elkann, che la Fiat sarebbe interessata alla divisione camion della Volkswagen. Fiat Industrial è il titolo che ha dentro, ricordiamo ogni volta, sia Iveco che CNH, quindi che i trattori, macchine in movimento terra, sta guadagnando il 5,7% e Fiat Auto il 3,4%. È una corsa senza fine a questo punto, tant'è che Fiat Industrial è arrivata sopra i 10 euro per azione, 10,18 euro, Fiat Auto, come la chiamiamo noi, è a 7,81 euro. Praticamente il titolo vale, sommando 10,18 euro e 7,81 euro, vale quasi 18 euro per azione, i due assieme. Ricordo che Fiat prima della scissione valeva, ultimo prezzo al 30 dicembre, 15,30 euro, 15,40 euro, quindi insomma il rialzo c'è stato tutto, è superiore a questo punto al 20% sul titolo da inizio anno. E poi parleremo anche di altre cose che riguardano il settore auto e anche la divisione Fiat dei veicoli commerciali, Doblò e quant'altro. Tra i titoli, visto che parliamo di borsa, segnalo che Milano va bene come le altre borse europee, meglio di Londra, che guadagna l'1%, Parigi guadagna l'1,6%, Francoforte l'1,3%, l'America mezzo punto percentuale, Milano guadagna l'1,5%. In netta ripresa oggi tutte le banche, che ieri molto erano calate, ma oltre a Fiat Industrial, che è il miglior titolo, in pregiro più 5,4%, Tod's di nuovo molto forte, più 5,20%, Azimut più 4,90%, ST Microelectronics più 4,70%, Exor, quindi la controllante finanziaria del gruppo Fiat, più 3,90%, Ansaldo STS più 3,80, di Fiat abbiamo detto più 3,3, Banco Popolare più 2,80, come l'Ottomatica, Mediobanca più 2,60, il 2,5% lo guadagna la Popolare di Milano e anche Intesa San Paolo, il 2,3% è il rialzo di Unicredito, il 2,2% di Pirelli, il 2% lo guadagna Autogrill e l'1,90% Ubibanca. Chi perde? Terna, l'1,1%, Atlantia, meno 0,40% come Buzzi Unicem. Il caso di borsa però è anche oggi Pininfarina, sospesa più volte per eccesso, non riuscì a fare prezzo, adesso è rientrata in contrattazione, anzi no, stavamo guardando, l'ultimo prezzo segnala una variazione percentuale del 12% a 5,73 euro. Anche qui diverse ipotesi, non fosse altro l'ipotesi cinese ma anche l'ipotesi Bolloré. De'Longhi più 5,80%, Indesit più 6,20, P Quadro sempre molto forte più 5,90%. In borsa il peggior titolo Telecom Italia Media, perde il 9,56%, è l'ex Seat. Pagine gialle, 349-238-6666 per i vostri sms, quindi i consumi delle famiglie, la vicenda Fiat intesa come vicenda sindacale ma anche come vicenda di borsa. E poi nella seconda ora del programma i debiti dei paesi europei, i debiti sovrani, come si chiamano in gergo. Oggi aste molto importanti, anche un'asta italiana, tensioni sulle aste e quindi hanno dovuto offrire un rendimento un po' più alto di quelli precedenti per trovare sottoscrittori, ma buona, molto buona la domanda, soprattutto e anche per l'Italia. Allora rapidamente le notizie in breve. Euro quota 1,296, oro stabile 1376 dollari l'oncia, petrolio stabile 89 dollari al barile. Faccio notare però che ieri sera è uscito il bilancio trimestrale di Alcoa, che è il più grande produttore di alluminio al mondo, tra l'altro è la prima trimestrale di quelle che arriveranno dall'America. Ebbene, l'utile è salito a 258 milioni di dollari contro un rosso da 277 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso, quindi ottimo, è il miglior risultato dal terzo trimestre 2008 e anche i ricavi sono saliti a 5 miliardi e 650 milioni. Allora, veniamo alle vicende europee. Anche il Giappone, dopo la Cina, acquisterà obbligazioni di nuova emissione da parte del cosiddetto fondo di salvataggio europeo. Lo ha annunciato il ministro delle finanze Yoshikio Noda, ipotizzando una quota del 20%, e ha detto esplicitamente che vuole essere un mezzo per sostenere i paesi europei ad affrontare la crisi del debito in funzione anche della stabilizzazione finanziaria. Come dire che nemmeno al Giappone conviene avere un'Europa, diciamo, fragile e a un passo dal crack di alcuni paesi, quindi con enormi dubbi che porrebbe sulla tenuta dell'euro e con consumatori sempre più spaventati. Tant'è che poi la stampa irlandese ha scritto che il Giappone vorrebbe addirittura obbligazioni fino a 1 miliardo di euro come primo aiuto per la crisi del debito dell'Irlanda, quindi sottoscrivendo l'European Financial Stability Facility, cioè il fondo salva stati europeo. Però oggi giornata molto importante, ne parleremo più avanti, anche e soprattutto per le aste. Allora, questa mattina c'era stata molta tensione sull'asta italiana, perché la differenza tra quanto rende un bot a 12 mesi italiani italiano e a 12 mesi l'equivalente tedesco era salita a 2 punti percentuali, cioè il 2,067%, il massimo dal dicembre del 2008, è in pieno crack Lehman Brothers. Però boom di richieste. Praticamente il tesoro italiano doveva collocare 7 miliardi di bot a 12 mesi, le richieste erano pari a 11 miliardi. È salito il rendimento. Così come è salito il rendimento anche per i titoli di Stato greci, che sono saliti al 4,90%, però anche qui la domanda era buona, la Grecia doveva collocare quasi 2 miliardi di obbligazioni, trovare compratori per 2 miliardi del suo debito, e le offerte sono state pari a 3 miliardi e mezzo. Dopo però che c'è stata l'asta italiana con una buona offerta, è calato di nuovo il rendimento dei nostri titoli di Stato, e questa è una buona notizia. È sceso sotto i 2 punti percentuali come differenza con quelli tedeschi all'1,94%, in calo anche La differenza tra quanto rende un titolo di Stato tedesco e quello portoghese è il 4%, l'irlandese è il 6%. Sempre ai massimi, invece, gli spread, come si chiamano in gergo, tra titoli di Stato tedeschi e quelli greci, siamo al 9,41% di differenza, e spagnoli il 2,68%. E tra l'altro domani vi è un'asta per 1,2 miliardi di titoli portoghesi, e giovedì l'Italia dovrà trovare compratori per buoni del tesoro pluriennali, i BTP, per 4 miliardi, da 4 a 6 miliardi complessivamente. E poi il Portogallo, che ha confermato, insomma, l'ho detto, il premier portoghese José Sócrates: non chiederemo il salvataggio europeo. Angela Merkel, il cancelliere tedesco, dice: beh, insomma, i mercati diano un po' di tempo al Portogallo per mettere in atto i tagli al bilancio che ha annunciati. Lisbona ha varato delle misure importanti, richiede un po' di tempo alla loro attivazione, diano tempo al Portogallo. Ma nel frattempo dalla Spagna il premier Zapatero dice: attenzione, noi riusciremo a raggiungere, a centrare l'obiettivo di portare il deficit spagnolo, che attualmente è al 9%, al 6%. Di Fiat volete sapere, ma ne parliamo più avanti. Comunque botta e risposta. Susanna Camusso, segretaria della CGIL, ha detto da Marchionne: ogni giorno arriva un insulto. Marchionne le risposte a stretto giro: non confondere il cambiamento con gli insulti, non ce l'ho né con la CGIL né con Landini. E poi chi perderà il referendum di giovedì e venerdì prossimo accetti la sconfitta. In America stiamo festeggiando per la ripresa dell'industria. E poi c'è questa cosa un po' così singolare, che il ministro Brunetta ha detto oggi, parlando della lotta all'assenteismo condotta nel pubblico impiego: Marchionne sta copiando da Brunetta. Quello che ho fatto io è esattamente quello che sta cercando di fare Marchionne nelle sue fabbriche. Va ben tutto, ma insomma. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Primo tema di cui ci occupiamo: le famiglie italiane e la crisi. Una crisi che chiaramente colpisce non solo le famiglie italiane, ma non colpisce tutti allo stesso modo. Non colpisce tutti nello stesso modo per un motivo molto, molto semplice, perché per esempio in Gran Bretagna, come già ieri abbiamo raccontato, l'amministratore delegato della Royal Bank of Scotland, Stephen Hester, si porterà a casa quest'anno 2 milioni e mezzo di sterline, quasi 3 milioni di euro, in bonus, che quindi avrà complessivamente l'uomo quasi 7 milioni di sterline di stipendio, con buona pace del premier David Cameron, che si era augurato che la Royal Bank of Scotland, che è stata nazionalizzata, cioè salvata dal governo, la Royal Bank of Scotland è stata salvata dal governo britannico, che si è comprato l'84% della banca, un salvataggio costato comunque al contribuente inglese, anche se non sono soldi persi, 45 miliardi di sterline, 54 miliardi di euro. Immaginate se in Italia si fosse dovuta salvare una banca pagando 54 o prestando comunque 54 miliardi di euro, e poi l'amministratore legato alla banca, a distanza di un anno, tra bonus e stipendio, portasse a casa quasi 7 milioni di euro. Anzi, più di 7 milioni di euro. Sicuramente non avrà problemi lui sul fine mese e sulla quarta settimana, tant'è che oggi addirittura il governo Cameron ha dovuto dire: beh, non imporremo nessun tetto ai premi di fine anno che possono essere corrisposti ai manager dopo 2 anni di guerra aperta. Retromarcia anche lì, è una Caporetto, passata la festa, gabbato lo santo. Dicevamo, questi i non problemi di Stephen Hester, e invece oggi l'Istat ci racconta che i problemi ci sono per le famiglie italiane. Redditi al palo nel terzo trimestre, variazione pari a zero. E ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Buonasera. Buonasera. E buon anno. Buon anno anche a lei, come tutti gli ascoltatori. Allora, e i nostri ospiti. Allora, terzo trimestre al palo, c'è cioè variazione zero sul trimestre precedente, variazione dell'1,4% rispetto al terzo trimestre del 2009, ma soprattutto nei primi nove mesi dell'anno, il dato si capisce da solo, il reddito delle famiglie è aumentato dello 0,4%, la spesa delle famiglie è aumentata del 2,2% al netto di tutto, per cui è chiaramente balla un 1,8% di erosione del potere d'acquisto. E ci è venuto in mente, anche per non partire subito così pesanti, una scena di un film, qualcuno se lo ricorderà, Signori si nasce, 1960, Mario Mattioli regista, Totò l'interprete, la scelta della cena. Una bella cenetta gustosa e succolenta. Beh, mi ordini. Antipasto. Antipasto. Caviale e salmone. Caviale e salmone. Oh, poi un bel consumé ristretto, molto ristretto. Etto. Dentro un uovo. Un uovo? Un uovo, è poco. Sì. Metto due uova. Due uova. Oh, Battista. Dimmi un po', dimmi la verità. A pesce, come stiamo? Male. Lo so. E sa, non è stagione. È i temporali, eccetera, eccetera. Beh, allora questo pesce me lo sostituisci col pollo. Pollo. Hai capito? Il pollo, patatine fitte, con due patatine fitte. Pisate di stagione. E formaggio. Come formaggio? Gruyère. Gruyère, autentica, deve essere autentica. Vizzera, sì, Vizzera. Ma poi porti un po' di dolce. Che dolce? Cancaramello. Frutta? Esotica. Ananas. Ho tutto questo, io lo voglio innaffiare. Lo voglio innaffiare una bella bottiglia di champagne ghiacciata. Champagne francese. Francese, piper. Piper. Portami una bella piper, va. E i soldi? Quali soldi? I soldi. Guardare che cosa? Hai comprato tutta questa roba? Oh, ma insomma, c'è una notte, ma allora è l'abitudine che hai preso. È una malattia. E tu ogni volta mi chiedi i soldi. Ma insomma, allora, io ti ho messo su un piedistallo, l'ho messo. Allora non ci vuoi stare sul piedistallo che ti ho messo? Scusa, anticipa tu, cosa vuoi da me? E io non c'ho un centesimo, signor Barone. Come c'ho un centesimo? Io non c'ho un centesimo. E allora che mangio io questa sera? Sì, la solita mortadella. Sono sei mesi che mangio mortadella. Eccola qua, signor Barone. Sono sei mesi che mangio mortadella. Allora, buttiamola un po' anche a ridere, anche se il tema è serissimo, per non gravare, insomma, sull'ascoltatore. La spesa delle famiglie cresce più del reddito, questo lo certifica l'Istat. Non vorrei polemiche politiche al 349-238-6666, ossia il numero per i vostri sms. Più 2,2 la spesa, più 0,4 invece il reddito. La propensione al risparmio delle famiglie così tocca il minimo dal 2000. Allora, Presidente Giovannini, questo ci sembra andare in parallelo con quanto segnalava ieri la Confcommercio, sempre sui vostri dati, che i consumi, come spese di consumi delle famiglie, sono scesi ai minimi dal 99. Anche voi vedete una ripresa che si allontana, nel senso che va verso il 2012, con questa frenata nel terzo trimestre? I redditi alla fine del 2010 sono più o meno ai livelli del 2000. Del 2000? Anni, del 2000, esattamente. In termini reali, in termini cioè reali, al netto dell'inflazione? Esattamente. E quindi negli ultimi due anni fondamentalmente si sono persi 8 anni di crescita dei redditi delle famiglie. Redditi che erano comunque cresciuti meno del prodotto interno lordo perché la quota dei profitti era in qualche modo aumentata. La notizia che non è buona per le famiglie che emerge da questi dati è anche che appunto la propensione al risparmio continua a scendere, quindi per tenere dei livelli di consumo considerati desiderabili da parte delle famiglie si riduce l'accumulazione di capitale che era stato fatto nel passato e quindi si attinge appunto al risparmio. Il dato in qualche modo positivo, che però fa un po' il paio con quello che diceva lei a proposito della Royal Bank of Scotland, è che invece i profitti, la quota dei profitti delle imprese è in salita, proprio a partire dall'inizio del 2009, quando avevano raggiunto il minimo storico, invece negli ultimi due anni, un anno e mezzo, la quota dei profitti è ricominciata a salire, da circa il 39% a circa il 42%. Questo è un segnale che le imprese hanno evidentemente superato la fase critica, ma non necessariamente questo si riflette in investimenti molto più alti. Certamente gli investimenti stanno crescendo, ma non sufficienti a tirare tutta la crescita. Mi scusi, Presidente, mi faccia capire, se aumenta la quota dei profitti delle imprese, ma cala il risparmio degli italiani e cala di fatto anche il potere d'acquisto, perché se aumenta la spesa delle famiglie e cresce più del reddito, non ci vuole un genio per capire che cala il mio potere d'acquisto. Siamo tornati al livello del 2000, questo cosa vuol dire? Che non c'è ridistribuzione dei profitti realizzati dalle imprese? Che le imprese, teoricamente, secondo la teoria economica, con maggiori profitti dovrebbero fare più investimenti e quindi assumere di più e questo generare redditi per le famiglie. Siamo ancora lontani però da una fase in cui questo processo è messo in pratica in questa fase, perché la disoccupazione è talmente elevata, l'utilizzazione del lavoro nelle imprese è così bassa che le imprese possono, magari facendo un po' più di straordinari, aumentare la produzione senza bisogno di nuove assunzioni. E quindi la jobless recovery, torniamo sempre lì, la ripresa dell'economia senza creazione di posti di lavoro. Domanda, che cosa vuol dire che la propensione al risparmio delle famiglie è scesa al 12,1%, cioè il valore più basso dai primi tre mesi del 2000? 12,1% di cosa? Del reddito disponibile. Quindi alla media, perfetto. All'inizio degli anni 2000 eravamo intorno al 16-17%, al momento della crisi, cioè nel 2008, eravamo intorno al 15%, in due anni questa quota è scesa al 12%. Quindi questo segnala proprio questa erosione della capacità di risparmio delle famiglie, che viene utilizzata, questo risparmio passato, proprio per finanziare dei consumi che il reddito corrente non riesce a finanziare. Allora, domanda ancora, e qui mi rivolgo anche a dei dati della Banca d'Italia. I dati sono riferiti solo fino al 2008, però noi vedevamo nei dati Banca d'Italia, guardando come il reddito viene distribuito per classi di età, allora anche qui è ovvio che se uno ha 30 anni tende a guadagnare meno di uno che ne ha 55, non è questo il punto è la dinamica di questo reddito. Allora, detto brutalmente, fino al 2008 chi più guadagnava ed era anche più anziano come età, anche lavorativa, ha continuato ad guadagnare, cioè il livello, per esempio, dal 2004 partiva a un livello di 110 chi aveva più di 55 anni, nel 2008 si collocava a un livello di 125. E la stessa cosa per chi ha tra i 54 e 65 e tra i 45 e 54 anni. Cioè nel 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 c'è stata una crescita del reddito equivalente per quelle fasce d'età, dove c'è stata una curva che dal 2006 ha piegato verso il basso, non posso farla vedere in radio, è stata per la fascia di età fino ai 44 anni. Voi trovate conferma in questo, cioè che c'è stata una tenuta, se non addirittura una crescita del reddito equivalente per le fasce di età sopra i 44 anni, e quindi la crisi si sta scaricando anche come potere d'acquisto più su chi ha, diciamo, meno di 40 anni? Certamente sì, nel rapporto annuale di quest'anno abbiamo mostrato come la crisi abbia colpito soprattutto i giovani, e il presidente Napolitano spesso cita i nostri dati su questo. Cosa vuol dire? Che molti giovani che erano in condizioni precarie, ad esempio, che già avevano salari relativamente più bassi rispetto alla generazione precedente, avendo perso il lavoro, sono spesso rientrati in famiglia, e le famiglie a questo punto si sono fatte carico di una funzione di ammortizzatore in qualche modo rispetto a questi figli che sono stati espulsi dal processo produttivo. Quindi negli ultimi 2-3 anni abbiamo visto un'accelerazione dell'espulsione appunto dei giovani in posizioni precarie, ma anche un ritorno in famiglia di alcune di queste persone che si erano almeno parzialmente rese indipendenti. Allora, vedo anche alcuni che dicono, attenzione, non è scesa la propensione al risparmio, bensì la possibilità di risparmio. Chiariamo questo punto, che è diverso. Un conto è la mia voglia di risparmiare, un conto è la mia capacità di risparmiare. Il dato che voi avete diffuso oggi, 12,1% del reddito, riguarda la propensione o la possibilità? La possibilità, perfetto. Questi sono i dati su quanto effettivamente risparmiato. Poi se uno intenzionalmente o meno è un altro. Ah beh, no, certo che la propensione potrei anche voler risparmiare il 70%, però poi come Totò Sì, la definizione statistica è che la propensione al risparmio è ciò che io riesco a mettere da parte. Ok, però è la possibilità di risparmio poi alla fine. Allora, una domanda che arriva molto al 349-238-6666 riguarda però i consumi che noi vediamo. Allora, attenzione, perché il buon senso è anche quello che ci faceva immaginare che il sole girasse attorno alla Terra. Per cui, con il buon senso, con questo empirismo, ho visto i ristoranti pieni, i negozi di high tech pieni sotto Natale. Abbiamo detto anche noi che le vendite di elettronica sono andate bene, ma che tutte le altre voci hanno avuto una contrazione del 3% nel 2010. Però, vediamo se c'è una risposta statistica. Perché ogni volta che parliamo di consumi, Presidente, arrivano molti messaggi, come anche in questo caso, che dicono, ma quale crisi, se poi non si trova un posto in montagna, non si trova l'ultimo iPad che è finito, esaurito, non si trovano, bisogna fare la fila ai ristoranti. Cioè, come mai ogni volta questa diversa percezione? Poniamo così. Ma la statistica è stata inventata proprio per andare al di là di ciò che ognuno di noi può osservare nel mondo che lo circonda. Se uno potesse osservare la realtà, i statistici non servirebbero. Di fatto cosa succede? Che c'è uno spostamento molto forte, che si osserva chiaramente nei dati, nelle preferenze di consumo. Ci sono molti consumi che sono in fortissima riduzione, non dimentichiamo che le autovetture e il valore unitario di un'autovettura è molto maggiore di un iPad, per esempio, sono in calo rispetto al 20% rispetto all'anno precedente. Quindi ci sono alcune categorie di consumo con un valore unitario molto elevato che sono in forte calo. Gli alimentari stanno cambiando qualità, molti stanno preferendo alimentari di peggiore qualità, e in questo modo riescono a risparmiare qualcosa da spendere eventualmente per l'elettronica. Questi dati mostrano cioè che la varianza, la variabilità nei comportamenti è molto elevata, e quindi non dobbiamo farci prendere dalle percezioni di ciò che vediamo un giorno, magari la fila dei saldi o cose di questo tipo, perché poi se andiamo a contare tutti i comportamenti di tutti gli italiani, la realtà è abbastanza diversa. Allora, dicevamo con il presidente dell'Istat, va bene tutto, va bene la statistica che ci riporta al 2000, ma la redistribuzione, cioè questo ha colpito tutti, o perlomeno la differenza tra il 10% più ricco e il 10% più povero è rimasta invariata, o abbiamo ampliato la forbice? La forbice è stata ampliata, questo lo dice ancora la statistica, questo perché la statistica non è solo fatta di medie, ma è fatta anche di varianze, di variabilità, e i dati della Banca d'Italia, ma anche quelli dell'Istat, mostrano come nel corso degli anni 2000, anche prima della crisi, la distribuzione del reddito era andata molto più a favore di ricchi e a favore dei poveri, e la crisi ha certamente accentuato questi aspetti. Gli indicatori non monetari di deprivazione cosiddetta, cioè la possibilità per una famiglia di mangiare tutti i giorni, di pagare bollette, eccetera, questi indicatori segnalano per esempio per il quinto più povero della popolazione un peggioramento molto forte nel corso del 2008 e nel 2009, quindi la situazione è peggiorata, ed è peggiorata in particolare per le famiglie che già erano povere. Allora, questo si può dire, lo dico a chi scrive al 349-238-6666 per i vostri, come numero per i vostri sms, dice, ma insomma lei ha solo notizie negative, adesso ricorre anche a ospiti negativi, sì, perché uno fa il presidente dell'Istat solo se è un ospite negativo, adesso se volete rispolvere il gufo, ma non mi sembra il caso, questi sono i dati, la Confcommercio, spiegatemi perché deve essere negativa, se poi vogliamo dire che va tutto bene, madame la Marchesa, dipende in che fascia di reddito vi collocate, perché se è il 10-20% più ricco, ha, come spiega l'Istat e la Banca d'Italia, vogliamo dire che la Banca d'Italia anche lei porta sfiga, non lo so, diciamolo, non mi sembra un approccio molto analitico, mi sembra un po' da strapaese, però la Banca d'Italia e l'Istat dicono che l'aumento del potere d'acquisto del lavoratore autonomo, piaccia o non piaccia, non voglio tornare sulle polemiche sull'evasione, è stato quasi 8 volte più alto dal 2000 al 2009 rispetto all'aumento del potere d'acquisto del lavoratore dipendente, che siamo d'accordo che adesso viene più tutelato in molti casi, se pubblico, da questa crisi. L'aumento della varianza lei ce l'ha ricordato, Presidente Giovannini, nel senso che la quota si è distribuita in maniera diversa. Sarà per questo che poi alcuni articoli di lusso, lo vediamo anche in borsa, abbiamo visto il record delle vendite della Ferrari nel 2010 in America, ne parleremo più avanti, America 2010, cioè ancora in piena crisi con la disoccupazione a record dal 46, la Ferrari vende il maggior numero di auto della sua storia negli Stati Uniti. Ecco, sarà per questo che poi osserviamo comportamenti discordanti nei consumi, quelli che vediamo tutti i giorni? Intanto dobbiamo ricordare che i consumi di oggi non sono finanziati soltanto dal reddito di oggi, ma anche dall'accumulazione della ricchezza degli ultimi 10-15 anni. Da questo punto di vista l'Italia è uno dei paesi con il rapporto ricchezza-reddito più alti al mondo, cioè vuol dire che le generazioni che ci hanno preceduto hanno accumulato moltissimo e questo consente anche alla generazione corrente, di fronte alla crisi economica che pure è molto severa, di non riversarsi in strada come è successo nel 29, ma in qualche modo attraverso l'utilizzazione delle ricchezze appunto accumulate nel passato di fronteggiare livelli di consumo adeguati. Non dobbiamo necessariamente slegare appunto ciò che è avvenuto nel passato e ciò che sta avvenendo oggi. Uno può anche avere un anno estremamente negativo, penso un imprenditore, ma se ha accumulato molti profitti nel passato riesce a fronteggiarla. Ecco, questa dinamica in parte slegata dalla congiuntura aiuta a spiegare certi comportamenti e il fatto che per esempio certi consumi non siano crollati come qualcuno potrebbe immaginare è proprio dovuto al fatto che la ricchezza delle famiglie resta alta anche in Italia. Una cosa invece la condivido con gli ascoltatori, che non sempre i prodotti alimentari non di marca sono prodotti più bassi come qualità, delle volte uno paga anche la pubblicità. E poi invece chi scrive, ma insomma come si fa a prendere una pasta, a pagare meno la pasta, però a comprarsi il telefonino o a spendere? Beh, quelle sono scelte, ragazzi, magari uno decide che ha meno valore l'alimentazione o che vuole spendere meno sui marchi. Vedo anche molti messaggi di ascoltatori che lavorano in discount, dice che hanno fatto il più 25%, stanno anche assumendo tempo indeterminato, vedete che poi la crisi per discount non c'è. Ma resta l'analisi complessiva e scorporata, piaccia o non piaccia. Infatti io ringrazio il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, oltre che per la chiarezza anche per la sua onestà intellettuale, che è una qualità non da poco in questo paese. Grazie e buon anno. Grazie e buon anno a tutti gli ascoltatori. Oggi la borsa ve la do io, dovrete accontentarvi perché i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Colle Sole 24 Ore sono in assemblea, quindi non ci può essere collegamento con Radio Colle Sole 24 Ore. Tra poco però parleremo anche di Fiat, che è la cosa più importante. Comunque la borsa... Allora... i titoli, a parte Terna meno 1,20 e Buzzi Unice meno 0,30, tutto il resto va molto molto molto bene, e non mi riferisco solo a Fiat Industrial dopo le parole sull'interesse per i camion della Volkswagen più 5,40, né a Exor più 3,66 e Fiat Auto più 3,25. Ripeto, faccio notare che la somma dei due titoli, Industrial e Fiat SPA, fa 10,16 più 7,79 euro, siamo a 18 euro e anche un po' di più per azione contro i 15,30 euro del 30 dicembre dell'unico titolo Fiat. Molto bene in pregiro più 6,60 e Tod's più 5,11%. Qui c'è un'intervista su Tod's di Diego Lavalle a Sole 24 Ore, è tutta positiva, con prospettive positive. Per quello che riguarda invece un altro titolo come Azimut più 4,60, la società ha annunciato che ha iniziato un'espansione sui mercati asiatici con la firma di accordi, e anche di questo parleremo domani con il numero uno di Azimut, perché anche la finanza che va in Asia fa parte di quel nostro approfondimento e viaggio tra gli imprenditori italiani che accettano la sfida cinese e usano i cinesi invece che soffrirli. E ancora per quello che riguarda i titoli, ST Microelectronics bene, anche più 5%, e bene anche Ansaldo CTS più 3,80%, Exor più 3,60%, Lottomatica più 2,97%, Banco Popolare più 2,91%, Mediobanca più 2,67%. Pininfarina, volete sapere, e vi do il migliore e il peggiore. Pininfarina, in sostanza, dopo l'interesse di Bolloré che è già impegnato in una joint venture con Pininfarina, e comunque sullo sfondo sempre l'interesse cinese, il titolo continua a pompare, sospeso due volte per eccesso di rialzo, più 12,7%. Sul fronte opposto invece Telecom Italia Media, peggior titolo, meno 11,80%. E beh, insomma, la vendita di Dalia TV, di cui T-Media al 6%, pesa. La piattaforma digitale che da oltre un anno sul calcio voleva sfidare Sky e Mediaset è stata di fatto sciolta. Adesso però restiamo in tema di Fiat, di auto, ma anche di veicoli commerciali, soprattutto non per parlare appunto di Fiat Auto e delle dichiarazioni di Marchionne e della Camusso, quanto per parlare proprio dei veicoli commerciali. Sì, perché si è chiuso in crescita anche per il mondo dei veicoli commerciali il 2010, 186.738 unità vendute, secondo quanto comunicato da Unrai ed Anfia, che è un più 6% nel 2010 rispetto al 2009. Certo, il 2009 era stato l'anno più basso come vendite nel mondo dei veicoli commerciali degli ultimi 11 anni, il dato del 2010 è positivo soprattutto però per il primo trimestre, dove si è fatto un più 26% complessivamente nei veicoli che vengono venduti non alle grandi industrie, insomma al cosiddetto B2B. E allora siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Fiat Professional, Lorenzo Sistino, che è la parte di Fiat Auto che vende veicoli commerciali. Dottor Sistino, buonasera e buon anno. Buonasera e buon anno a tutti voi. Allora, dicevamo, buono il dato per i veicoli commerciali, sicuramente migliore di quello delle quattro ruote classiche per noi clienti privati. Come è andata per voi, quindi per la parte Fiat Professional che questi veicoli vende? Ma nel settore dei veicoli commerciali leggeri abbiamo fatto un bel 2010, in quanto abbiamo venduto circa 10.000 unità in più e quindi siamo riusciti ad aumentare la nostra quota, che è salita al 44% contro il 41,1% dello scorso anno, quindi quasi 3 punti in più rispetto all'anno scorso, in un contesto di mercato che rimane difficile. Infatti negli ultimi due trimestri il mercato ha segnato un segno meno rispetto all'anno passato. Per fortuna stiamo vedendo qualche, seppur debole, comunque qualche segnale di ripresa, soprattutto da parte delle aziende, mentre rimane ancora abbastanza freddo il mercato dei piccoli imprenditori e degli artigiani che continuano a procrastinare gli acquisti in futuro. Quindi direi un bel 2010 per Fiat Professional, con un buon avanzamento di quota in un mercato che rimane ancora difficile. Ecco, vediamo che tipo di ripresa è quella che emerge, che viene fotografata dal mondo anche delle vendite dei veicoli commerciali, quindi dico banalmente i furgoni, ma non solo. Perché? Perché lei diceva, insomma, più 14% nel 2010, e il dato è buono, con la quota di mercato di Fiat Professional che sale dal 41,1% al 44%. Però anche per voi è valso quello che è valso per il resto del settore, cioè che tutti i numeri si sono fatti nel primo trimestre? Il primo trimestre è stato sicuramente un trimestre molto forte, e lo è stato per tutti e anche per noi. Il dato positivo per noi è che l'aumento di quota è stato progressivo, quindi anche nel terzo e nel quarto trimestre, insomma anche nella seconda parte dell'anno, abbiamo migliorato in termini di quota i risultati dell'anno passato. Quindi vediamo un incremento progressivo della quota. Purtroppo il mercato rimane depresso, perché, come ha detto lei in apertura, ci stiamo confrontando con l'anno scorso, che era il mercato più basso degli ultimi 11 anni. Quindi, siccome anche questi sono indicatori della qualità, intesa come intensità e forza di questa ripresa, lei ci sta dicendo che, insomma, dopo un risveglio a inizio 2010 importante, significativo, nei primi tre mesi, poi tutto si è raffreddato nella seconda metà dell'anno? È un po' così. i dati sono questi, e direi che c'è poco spazio all'interpretazione. Un primo trimestre molto forte e poi una seconda parte dell'anno sostanzialmente sui livelli dell'anno passato. Anche perché il vostro potrebbe essere un indicatore in qualche modo anticipatore, cioè voglio dire, io compro un veicolo commerciale, un furgone o quant'altro, se ho voglia e immagino che la mia attività vada in espansione, posso permettermi un investimento, ci sto dentro con i margini, altrimenti se sono incerto sul futuro mi tengo il veicolo che ho, possiamo dire così? Diciamo che la domanda dei veicoli commerciali è abbastanza correlata, no? Chiaramente non anno su anno, ma risente un po' certamente di come va l'economia e della fiducia che gli imprenditori economici hanno nelle prospettive del mercato. Come ho detto prima, mentre le aziende, le medie e grandi aziende che hanno procrastinato gli acquisti nel 2008, nel 2009, adesso stanno sostituendo i veicoli e quindi c'è una certa, seppur debole, ripresa, invece il mercato degli artigiani, dei piccoli imprenditori, di chi ha il veicolo per fare il suo mestiere, ecco, loro stanno ancora un po' aspettando, ed è questo un po', secondo noi, la ragione di questa domanda stagnante. I modelli, perché voi avete avuto molto buoni risultati su Fiorino e nuovo Doblò Cargo, un terzo in più rispetto al 2009, buono il risultato su Ducato, più 14%. Nuovi modelli sul 2010, anche se questi in parte erano, su 2011, anche se questi in parte erano già stati rinnovati? Noi abbiamo appena terminato il processo di rinnovamento della gamma prodotto, il Doblò è stato appena lanciato e ha anche vinto il premio come miglior furgone d'Europa per quest'anno, quindi sicuramente ci aspettiamo molto dal Doblò, perché è il veicolo che abbiamo appena lanciato, e il prossimo anno avremo anche delle nuove versioni su questo prodotto. Il Ducato anche quest'anno siamo andati molto bene con più 14%, e anche sul Ducato continuiamo a pensare ad uno sviluppo nell'anno successivo. Nuovi prodotti, abbiamo delle nuove versioni, avremo dei nuovi motori su tutta la gamma, ma nuovi prodotti in quanto tali no, anche perché abbiamo appena terminato il lancio del Doblò, due anni prima abbiamo lanciato il Fiorino. Abbiamo la gamma oggi che è la più nuova sul mercato. E gli stabilimenti vostri, nel senso che anche voi state pensando anche a stabilimenti fuori dall'Italia, oltre a quelli già... No, questo non abbiamo mai parlato, la produzione per ora non rimane dove è. Bene, almeno in questo caso di Fiat non parliamo di alternative. Grazie, bocca al lupo a tutti, anche i dipendenti di Fiat Professional. Grazie al ministro delegato Lorenzo Sistino. Grazie a voi e buonasera. E dai numeri di Fiat Professional buoni alle dichiarazioni dei vertici Fiat da Detroit. Allora, il presidente John Elkann, che già in un'intervista al Corriere della Sera aveva detto cresciamo all'estero per consolidare per la nostra presenza in Italia, è uscito con una dichiarazione che diciamo sostanzialmente ha mosso il mercato, dicendo attenzione, siamo interessati alla parte, potremmo essere interessati alla parte Volkswagen, diciamo la parte camion. Andrea Malan, inviato al Sole 24 Ore a Detroit, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, diciamo già del titolo, si è mosso oggi molto molto bene, il miglior titolo Fiat Industrial, non è il miglior titolo, in pregiudizio ha fatto meglio, più 6,60, poi Fiat Industrial più 5,40%. Dopodiché Marchionne ha precisato Volkswagen non ha mandato né un bouquet di fiori né una scatola di cioccolatini, ma insomma c'è un interesse per la parte camion di Volkswagen? Beh, diciamo che quella espressa ieri da John Elkann e anche da Marchionne è per ora poco più di una battuta. Quello che volevano sottolineare è probabilmente il fatto che Fiat Industrial non è così facilmente una preda come è stata dipinta finora, pensando anche alle trattative con Daimler per una possibile vendita dei camion, ma può essere anche un acquirente. Ricordiamo che comunque sempre qui a Detroit Dieter Zetsche, il presidente della Daimler, ha confermato che ci sono stati dei contatti. Quindi diciamo che è difficile immaginare un passaggio così rapido da una possibile vendita a una possibile grossa acquisizione. Volkswagen, dal canto suo, non ha commentato ufficialmente, ma il presidente Winterkorn ha detto: i nostri piani per Scania e MAN, cioè le due società nei camion, sono molto chiari, l'unico dubbio è su quando li metteremo in atto. Più precisamente, l'obiettivo di Volkswagen è possibilmente fondere le due società e creare quindi un'autonoma divisione camion, forse eventualmente in un futuro anche indipendente, come ha fatto adesso Fiat. E poi la vicenda Mirafiori. Allora, il nostro Jerry vi ha già dato l'ultimo aggiornamento, ossia che da alcune indiscrezioni che arrivano da Torino potrebbero anche c'è un po' di esitazione da parte di Fime UGL, quindi Cheese the Wheel, sul referendum. Temono che sia troppo a ridosso dell'assemblea della FIOM, temo, da indiscrezioni che sono arrivate, che ci possa essere un risultato non positivo, comunque debole. Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate. Quello che è sicuro è il commento che oggi ha dedicato all'amministratore delegato del Lingotto, Sergio Marchionne, la leader della CGIL, Susanna Camusso. È un governo che fa così ed è così tifoso che non ha il coraggio di vedere che quando l'amministratore delegato della Fiat insulta ogni giorno il nostro paese e le sue possibilità, e come si fa e si costruisce un rapporto con una grande politica industriale, non offende solo i cittadini e i lavoratori di questo paese, ma in realtà dice della qualità del governare e delle risposte che vengono date. Così appunto Susanna Camusso, che ha detto appunto ogni giorno Marchionne insulta, da Marchionne arrivano solo insulti per il paese. Andrea Malan non si è fatta attendere la risposta da Detroit di Sergio Marchionne. Beh sì, Marchionne tra l'altro ieri aveva parlato aveva ribadito le sue affermazioni sul referendum, quindi sul fatto che sarà decisivo e che se vincessero i no, aveva detto torneremo a festeggiare qui a Detroit, intendendo in realtà non a festeggiare un risultato simile, ma a festeggiare il buon andamento del business della Chrysler negli Stati Uniti. Quindi rimane la situazione così com'era. Marchionne oggi ha detto che in effetti non intende, non ha nessuna intenzione di offendere l'Italia. Probabilmente alcune affermazioni su alcuni problemi del nostro paese, su alcune difficoltà nelle relazioni industriali, anche rispetto a quelle che Fiat trova in altre parti del mondo, possono generare reazioni di questo tipo. Probabilmente in questi giorni, con la tensione inevitabile che c'è appena prima di un referendum così importante, è chiaro che il rischio di malinterpretare le parole dell'uno piuttosto dell'altro c'è. Sì, ogni parola va pesata. In effetti poi Marchionne ha detto oggi, insomma, qui in America festeggiamo perché c'è un'industria che si sta riprendendo, abbiamo rimesso in piedi un pezzo alla volta. Però poi ha anche aggiunto, devo dire, se ci buttano fuori dall'Italia perché non ci vogliono, devo andare in un altro posto a fare la vettura, la cosa è di una chiarezza incredibile. Ultima parte del programma. Allora, se oggi, un po' a sorpresa, il governo giapponese ha annunciato che comprerà anche lui, come ha fatto il governo cinese, non con le stesse quantità, la Cina è arrivata a quasi 700 miliardi, ma comunque comprerà il debito europeo attraverso il fondo salva stati, vorrebbe comprare una quota del 20%, addirittura la stampa irlandese ha ipotizzato un miliardo iniziale per il fondo che riguarda il salvataggio dell'Irlanda, e questo è il Giappone. Oggi tutti i riflettori erano puntati sulle aste, come si chiamano in gergo, quindi sul collocamento di debito di vari paesi europei, per vedere che tipo di rendimento avrebbero dovuto offrire i vari paesi per trovare sottoscrittori del debito da un lato, e quanto alta sarebbe stata la domanda. E via anche questa volta con la nostra base turca, visto che siamo al sud dell'Europa. In realtà la tensione c'è stata soprattutto sul collocamento italiano, perché la differenza tra quanto rende il nostro BOT a un anno e quello tedesco è salita sopra il 2%, sopra i 200 punti. Però la domanda è stata molto buona, collocavamo infatti sostanzialmente la domanda è stata pari a 11 miliardi di euro rispetto ai 7 richiesti, quindi ai 7 miliardi di debito che collocavamo. Dopodiché, dopo questa asta, è calata la differenza tra noi e la Germania, è tornata sotto i 2 punti percentuali all'1,94%. La Grecia ha collocato quasi 2 miliardi di obbligazioni a 6 mesi, il tasso però è salito al 4,9%. Anche altri paesi, domani per esempio la volta dei titoli portoghesi, 1,2 miliardi, giovedì di nuovo l'Italia va in asta con dai 4 ai 6 miliardi di bot. La differenza con la Spagna invece è in aumento, tra Spagna e Germania è in aumento. Si farebbe avanti anche un consorzio di banche per tutelare la Spagna e il collocamento di obbligazioni spagnole. Siamo in collegamento con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Praterotti. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. E buon anno anche a te. Per capire insomma quale sintesi potrà trarre da tutti questi collocamenti, visto che appunto ce ne saranno altri durante la settimana. Il Portogallo ha detto insomma non vogliamo l'aiuto europeo, l'ha detto il ministro, poi magari lo ascoltiamo delle finanze, però insomma le tensioni ci sono state, la domanda però è stata buona, prego. Sì, sì, è stata una domanda molto interessante a livello europeo in questo senso, perché il messaggio che ne viene è questo: il mercato non teme crisi improvvise o devastanti, drammatiche, però vuole farsi pagare un premio in più per il rischio che si assume. Questo è secondo me il vero messaggio. La domanda è molto forte, addirittura per aste a titoli, su titoli a breve, come è stato oggi un po' più o meno dappertutto, di solito la clientela è domestica, banche domestiche. In questo caso c'è stato un buon interesse estero, internazionale. In Grecia per esempio il 37% della domanda degli acquisti dell'emissione di oggi è stata internazionale, quindi vediamo che c'è un po' di fiducia che ritorna anche dagli investitori esteri sui paesi anche più a rischio. Per l'Italia il discorso non è preoccupante in questo senso, perché l'incremento che è stato registrato sui tassi è in linea con quello che sta succedendo su tutti i mercati. Insomma, l'Italia, un conto è non subire attacchi speculativi, un conto è essere consapevoli che bisogna restare in linea con quella che è la situazione del paese e quello che succede intorno a noi nei paesi simili. Quindi insomma niente di allarmante, interessante, però bisognerà vedere le prossime di asta, che saranno più importanti, perché essendo più a lungo termine lì, ecco, si misurerà l'interesse vero, la fiducia che c'è degli investitori internazionali sulla situazione europea. Un altro elemento interessante è stato appunto, come citavi giustamente, quello del Giappone. Il Giappone che ha dato questa disponibilità ad acquistare il 20% della prima emissione di bond garantiti del Fondo di Stabilità Europea a favore dell'Irlanda, perché poi è un meccanismo indiretto di finanziamento dell'Irlanda. Lì sono 8 miliardi, dovrebbe essere fino a 8 miliardi la prima tranche, quindi insomma il 20% per il Giappone, però bisogna anche ricordare che il Giappone non comprerà in valuta giapponese, ma comprerà in euro. Questo è un fatto importante, perché ha deciso di utilizzare le riserve valutarie in euro per acquistare i bond in euro che finanzieranno la stabilizzazione irlandese. Quindi ecco, non c'è un impatto sulle valute, non c'è un impatto sui tassi di cambio, è una manovra neutra. Neutra da questo punto di vista. Però diciamo, quasi a livello di politica economica si può notare che non solo la Cina ha già il 7% del debito europeo e ha dato garanzie su Portogallo e Spagna, ma anche il Giappone. E tra l'altro la motivazione era interessante sui giornali giapponesi, perché diceva in sostanza noi vogliamo aiutare l'Europa a stabilizzarsi e avere un mercato non con troppe tensioni. Ecco, si può dire che forse anche l'area dell'est asiatico, Cina in primo luogo ma non solo, ha capito che una tensione forte, pesante, non solo più sulla Grecia, sull'Irlanda, in Europa, danneggerebbe anche le loro economie, oltre che il sistema finanziario complessivamente dato? No, ma certamente questo è un altro degli aspetti più interessanti di questo momento, è che insomma mentre siamo passati da una fase in cui accusavamo la Cina di ogni nefandezza, che è nel campo della proprietà intellettuale, intendo dire, anche dei diritti umani, la Cina sta anche in questo senso spingendo di più sul supporto alla ripresa americana. Non dimentichiamo, la Cina è il primo acquirente di titoli di Stato americani, primo acquirente, per cui fa con l'Europa quello che già sta facendo già con gli Stati Uniti. Quindi vengono rinsaldati i legami attraverso il supporto alle valute e alle economie di fatto europee, perché ecco, sappiamo qual è il ruolo della Cina. Io penso che sia molto importante questo aspetto della Cina che aiuta l'Europa, perché con la Cina dovremo fare conti, e quindi anche questa ripresa europea dipenderà molto dalla Cina. Ecco, resta l'incognita del Portogallo, che sta facendo un po' come l'Irlanda quando ci mise settimane a accettare l'aiuto europeo. Sentiamo il ministro alle finanze portoghese Teixeira de Dos Santos. Neste momento nós temos que estar focados em fazer o que estiver ao nosso alcance. In questo momento dobbiamo essere concentrati nel fare tutto ciò che è in nostro potere per evitare l'eventualità del ricorso ad aiuti esterni. Il Portogallo sta facendo il suo lavoro per affrontare e risolvere gli squilibri economici e finanziari che si presentano. Chiaramente l'Europa non sta facendo il suo lavoro per difendere la stabilità dell'euro. È vero che la situazione è peggiorata, ma il Portogallo ha ancora margini per pagare interessi elevati. I rendimenti richiesti sui nostri titoli sono ancora a livelli gestibili e siamo in grado di sostenerli. Per ciò che riguarda un eventuale ricorso a un piano targato Unione Europea Fondo Monetario Internazionale, questo provocherebbe un danno di immagine molto grande al Paese e ci vorrebbero anni per ricostruire la nostra immagine, la nostra reputazione. Molto significativo. Levará anni al Paese recuperare questo danno reputazionale. Insomma, scatto continuo all'orgoglio per il mondo del Portogallo. Anche la Merkel ha chiesto, ha detto oggi, mi sono dato un po' di tempo anche al Portogallo. Intanto io ringrazio il vice direttore del Sole 24 Ore Alessandro Patriotti in collegamento con noi. Con questa base turca mi avvio alla conclusione del programma. Turca, ci chiedete perché? Perché l'Europa del Sud è tanto disprezzata dall'Europa del Nord, e uso la base turca come viatico per il caravanserraglio, il souk che arriva dopo questo programma. Giuseppe Cruciani, adesso non esagerare. Io lo posso dire, tu no. Adesso così. Dici tu quello che dico io, dai. Vabbè, parleremo della vicenda Marchionne, naturalmente, anche della guerra interna ai giornali di centrodestra tra Libero e Il Giornale, e poi la vicenda dei Colibrì che ancora tiene banco. L'allargamento della maggioranza, è stato annunciato il gruppo di responsabilità nazionale che nascerà entro la settimana da parte di uno dei fuoriusciti da Futura Libertà, insomma tutte queste cose qui. Ecco, un'ultima notizia, visto che parlare di Marchionne la dà adesso invece il comitato della FIM a Torino: non ci sarà nessun rinvio al referendum, è stato ipotizzato. E poi invece viene confermata la data, quindi terzo turno di giovedì 13 dalle 22 e primo e secondo turno di venerdì 14 gennaio. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.